ti do il mio personale benvenuto a questa serie di podcast Sprigiona il tennista che è in te, nella quale intervisterò numerosi personaggi di rilievo del nostro sport, alcuni anche di caratura internazionale. Bene, ed è proprio per continuare ad offrirti contenuti di alto valore che possono darti nuovi spunti per migliorare il tuo tennis che ti invito a mettere mi piace alla mia pagina Facebook Tennis Winner Game. In questo modo non solo contribuirai a mantenere vivo l'interesse per questa iniziativa, ma mi consentirai di verificare il tuo gradimento. Grazie! Ciao a tutti, oggi siamo qui per una nuova puntata del podcast Sprigiona il tennista che è in te e siamo in compagnia di Adriano Albanesi. Ciao Adriano! Buongiorno Tiziano, buongiorno a tutti gli amici di Tennis Winner Game. Ciao Adriano, grazie per la partecipazione. E dovete sapere che attualmente Adriano è maestro nazionale della Federazione Italiana Tennis, coach internazionale della GPTCA e certificato professional PTR. La sua carriera da coach è iniziata come responsabile direttore tecnico del Salaria Sport Village dal 2007 al 2010. Nel 2010 e fino al 2012 Adriano ha lavorato come direttore tecnico del Tennis Club Rai, mentre dall'ottobre 2012 all'ottobre 2013 ha prestato il suo servizio presso la Rome Tennis Academy. Attualmente Adriano collabora con la Vianello Tennis Team ed è il coach personale di Rodriguez, Cristian Camillo, giocatore colombiano 589 del ranking ATP in singolo e 286 in doppio, di Grimolizzi Gaston Arturo, giocatore argentino 417 ATP in singolare, ed è anche responsabile e direttore tecnico degli atleti juniores di interesse nazionale Under 12 e Under 14. E la presentazione di Adriano non finisce qui, perché dovete sapere che è stato anche un grandissimo giocatore professionista. Infatti ha ottenuto la classifica di 1210 ATP in singolare e raggiunto la posizione numero 800 del ranking mondiale in doppio. È stato tra i primi 35 giocatori italiani del circuito, avendo raggiunto la classifica nazionale di 2-1. Tra i risultati di Adriano da annoverare come giocatore spicca la vittoria dei campionati italiani a squadre Under 18 e nel proseguio della sua carriera si è trovato al di là della rete come avversari giocatori del calibro di Nicolás Almagro al Challenger ATP di Reggio Emilia, Joaquín Johansson al Challenger ATP di Roma, Potito Starace, Mikhail Yuzny, Andrei Golubev, Flavio Cipolla e Simone Bolelli. Adriano ha giocato campionati a squadre per diversi club europei, tra i quali sono da annoverare il Tennis Club Parioli, il TC Trapani, il TC Reggio Emilia, il TC Piacenza per quanto riguarda l'Italia, e Beaulieu-sur-Mer Tennis Club, correggimi se sbaglio Adriano, in Francia. No, giusto. Ok. TC Kelkheim e TC Heidelberg in Germania e TC Bratislava in Repubblica Slovacca. Bene, Adriano, ad oggi detieni il Guinness di presentazione più lunga del podcast Sprigiona il tennista che è in te, quindi insomma questo già è un grandissimo inizio, perché denota che non solo sei stato un grandissimo giocatore professionista ma anche un grandissimo coach, e quindi già da qui ti faccio i miei più grandi complimenti, perché tutto quello che ho letto è stato supportato da fatti e da fatti concreti in campo. E come appunto stavo dicendo, prima come grandissimo professionista, giocatore ATP e poi come coach internazionale. Ma veniamo subito al dunque, perché ho tantissime cose da chiederti, e la prima domanda è: come ti sei avvicinato al mondo del tennis? E ogni giocatore ha un proprio aneddoto da raccontare solitamente. Ad esempio ricordo Djokovic che nel suo libro racconta di come si è avvicinato per la prima volta al tennis, sistemava il suo borsone meticolosamente e proprio come facevano i campioni, ed entrava in campo all'età di 10 anni già come un professionista e sotto lo stupore della maestra e di tutti gli altri ragazzi. Quindi volevo sapere da te, da dove è iniziato tutto e com'è proseguito il tuo cammino fino a diventare coach? Allora, Tiziano, tutto è iniziato nell'estate del 1990, ricordo ancora come si chiamava il campus estivo, c'era questa era chiamato così, Esta Tennis 90, mi è rimasto impresso proprio e non potrò mai dimenticarlo, perché da lì è iniziato tutto il mio cammino e tutta la trafila che ho fatto da giocatore. E raccoglievo le palle a mio padre a bordo campo, portava con lui a giocare a tennis, ma più che altro lui giocava con i suoi amici, quindi per stare un po' con mio padre cercavo insomma, di entrare in campo in questo modo, facendo il raccattapalle, ma quell'estate è stata particolare nel 90 perché mia madre era preoccupata perché tendevo ad ingrassare, cioè avevo le manigliette della Murcia, proprio i fianchetti, ero rotondo, e quindi mi spinse a partecipare a questo campus vicino casa. Io abito a 20 km da Roma, e da lì in poi, da pomeriggi e pomeriggi passati a colpire palline, a scoprire sempre la bellezza dei gesti all'interno del campo, hanno fatto sì che la passione saliva, la voglia cresceva e si accendeva sempre di più, e da lì iniziò tutto il mio cammino e la trafila che ho fatto, come vi dicevo, il percorso da primi colpi all'agonismo, la prima classifica, i primi punti ATP e poi quello che sono adesso, un coach. Non è stato, ti assicuro, facile nei primi anni che ho smesso di giocare a tennis, perché devi togliere un po' l'egoismo del giocatore e iniziare a metterti a disposizione di chi hai davanti, no? E quindi quei due anni sono stati di transizione, nel senso, ho iniziato il mio percorso formativo con tutte le varie certificazioni italiane e internazionali, ho avuto belle esperienze, però sempre regnava, come dire, un po' di agonismo, perché non ti vuoi di agonismo ed egoismo, perché non ti vuoi, come dire, staccare da quello che è, da le tue emozioni, no? Da quello che sei stato te il protagonista in prima persona, mentre poi dopo cambia tutto, no? E proprio questo mettermi a disposizione non nasceva in un primo momento, l'ho fatto perché mi sentivo di farlo, ma a distanza poi di due anni la maturazione, il percorso, i risultati, i rapporti con i ragazzi, tutto ciò è stato un susseguirsi di emozioni, una crescita personale che a un certo punto ho deciso e ho detto: io forse sono nato e voglio fare questo, cioè mi sento che mi devo sporcare le mani di terra rossa, e così è stato. Beh, quindi è stato bellissimo quello che hai detto. Quando inizi, in riassunto, hai iniziato come tanti e poi comunque sei giunto al termine della tua carriera professionistica come pochi, perché non tutti raggiungono il livello al quale tu sei arrivato, e anzi molti abbandonano o comunque sia rinunciano, è troppo difficile. Quindi è bello aver sentito da te appunto come secondo me è stato un po' quello che hai detto, rappresenta un po' la voce del popolo, no? Non ci dobbiamo mai dare per vinti, perché raccontavi appunto: leggermente in sovrappeso, mia madre mi ha portato a questo camping estivo, e invece dopo hai fatto una carriera del tutto ma infatti voglio raccontarti che a distanza di tutti questi anni il mio primo maestro, quel maestro che mi ha messo la racchetta tra le mani, mi disse: non avrei mai immaginato che avresti raggiunto questi livelli, perché proprio con quel fisico non potevi farlo. E infatti, proprio perché io ho stirato, ho distrutto il mio fisico al massimo, l'ho spremuto al massimo, io a 28 anni ho avuto un'operazione agli ernia del disco, un distanziatore fra le vertebre, e da lì ho dovuto iniziare a giocare più in qualità, e quindi campionati a squadre piuttosto che tornei future e challenge che mi portavano a giocare ogni giorno. Quindi dai 28, 20, 29 anni ho dovuto giocare più in qualità e non più in quantità. È stato questo, diciamo, l'ultimo step da giocatore, quello che sta facendo un po' Federer adesso negli ultimi anni della sua carriera. Certo. Qual era la tua arma più importante, il tuo talento che mettevi a disposizione per vincere le partite? Parlo ancora dell'Adriano giocatore, adesso passeremo tra poco all'Adriano coach. Ma parli a livello tecnico come arma proprio di colpi, o per quanto riguarda una tua caratteristica che mettevi in campo sempre ogni partita e che comunque ti produceva risultati? Beh, sicuramente per quanto riguarda il lato emotivo, la continuità. Ma non parlo di continuità come colpi, perché sono sempre stato un giocatore brillante, posso dire così. Però ecco, era più una continuità emotiva, cercare di stare sempre lì, sul pezzo, sul punto, non mollare mai. Per quanto riguarda invece negli ultimi anni io faccio rovescio una mano, forse rovescio lungolina, le più belle partite le ho vinte con quella soluzione. Quindi il rovescio, a livello tecnico il rovescio lungolinea. Sembra strano, no? Un colpo estremo, un colpo che uno gioca e perde campo se lo gioca, però riuscivo a costruirmi talmente bene l'azione prima che poi riuscivo a togliere le castagne dal fuoco con il rovescio alla mano. Ricordo tante partite concluse con questo colpo. Sì. No, io ci posso credere benissimo a quello che mi stai dicendo, perché immagino che a livello professionistico poi tu lo puoi dimostrare sicuramente meglio di me. Non sono molti quelli ad avere un rovescio lungolinea performante capace di fare vincenti, quindi magari lasciano un po' spazio a quella soluzione, invece un giocatore che ce l'ha è assolutamente bravissimo, un'arma in più. Bravissimo, è vero. Sì, è stato così, perché mi fai questa domanda un po', come dire, a bruciapelo, cioè è il colpo che mi ha lasciato più emozione. Mm-hmm. Perfetto. Capisci? Sì. Cioè è il colpo che 5 pari al terzo, 4 pari al terzo, un tiebreak in un momento chiave, era quello che mi faceva uscire fuori da una situazione particolare. Mm-hmm. Sembra, non so se era per liberarmi o per convinzione, però riusciva veramente bene. Funzionava. Ricordo che il papà di Gianluca Naso, che era in panchina, sì, ricordo, impazziva. Enzo lo facevo impazzire in tutti i sensi, sia come rischio che prendevo che come soluzione. Era una soluzione notevole e appagante. È affascinante anche da vedere poi da fuori, quindi insomma rovescio una mano lungolinea. E, bene, e adesso volevo entrare un po' nella tua carriera, sia da giocatore che da coach. Nella tua presentazione ho nominato tanti professionisti con i quali sei entrato in contatto, e sia da giocatore prima e ora da coach. E cosa vuol dire essere un coach? O meglio, mi spiego meglio, quali caratteristiche metti in campo ogni giorno per raggiungere giorno dopo giorno il sogno dei tuoi giocatori? Allora, io dico sempre che noi coach siamo come dei sarti, in inglese si dice tailor, mm-hmm, cioè dei sarti che cercano di fare il miglior abito su misura per i propri giocatori, per i propri allievi. E quindi dobbiamo fare, secondo me, distinzioni di chi abbiamo davanti. Non abbiamo mai lo stesso individuo, non mi piace standardizzare le cose. Cioè la cosa più bella è rapportarsi ogni giorno con una persona differente. Ok, io ho solo 2 giocatori di spicco, mm-hmm, ATP, gli altri però sono altrettanti 6, 2, 4. Quindi io devo cercare comunque di trovare la soluzione e di entrare in ogni carattere differente, in ogni gioco differente, in ogni problematica differente. Mm-hmm. Quindi per me è questo, cioè cercare proprio di adattarsi, l'adattabilità. Quell'adattabilità che oggi fa la differenza, secondo me, per un coach, perché è sensibile, mm-hmm, come è sensibile il giocatore, perché oggi il giocatore fa 20 ore di aereo, arriva, gioca sul cemento, riparte, va a giocare sulla terra, tira vento, le palle sono differenti, l'arbitro ti ruba le palle o sbaglia una chiamata, cioè capisci? Mm-hmm. Quella adattabilità, quella sensibilità che devi avere da coach. E quindi secondo me una cosa principale è l'ascolto, mm-hmm, perché molti coach secondo me impongono, molti coach alzano la voce, molti coach si scontrano senza trovare una soluzione o un canale di comunicazione. Mm-hmm. E l'ascolto è molto importante, perché ti ricordo, Tiziano, che ogni volta che hai un giocatore davanti devi cercare di capire, perché ognuno ha una cultura differente, mm-hmm, può venire da una nazione differente, può avere una differente religione, mm-hmm, può essere magari figlio unico, o magari viene da una famiglia numerosa. Tutti si relazioneranno e tutti avranno differenti abitudini e differenti culture. Io penso che magari partisse tutto e solo dal dritto e rovescio, magari saremmo tutti campioni. Bisogna assolutissimamente andare oltre. Io penso questo. Quindi Adriano, correggimi se sbaglio, la caratteristica principale che un coach deve avere è ovvio, diamo per scontato che deve essere competente e quindi sapere di tecnica, di tattica o di aspetto fisico, ma la caratteristica principale è appunto l'abilità, l'aspetto mentale, quindi la capacità di saper interpretare il soggetto, il giocatore che si ha davanti e agire di conseguenza in base alle proprie caratteristiche mentali, e bisogna conoscerle assolutamente se si vuole essere un coach di alto livello. Sbaglio, Adriano? No, è giustissimo, ecco, hai nettamente ragione, perché non possiamo dare la stessa forma allo stesso vaso che creiamo, mm-hmm. allo stesso pezzo di creta, che cioè ogni situazione è differente. Mm-hmm. Va benissimo, ci sono quelle accademie che danno uno stampo, ma se non siamo bravi a dare poi dopo uno stampo specifico, come dire, la cornice al quadro, che è quello che poi dopo quadro da quadro, cioè differenza da quadro a quadro, se non diamo quella cornice il quadro rimane così, quindi dare sempre quel qualcosa in più in base a chi abbiamo davanti. Certo, per fare un esempio così metaforico mi è venuto in mente adesso, tutti i giocatori e giocatrici professionisti vogliono arrivare a giocare a Wimbledon, ma per arrivare a Wimbledon ci sono varie strade, no? C'è chi passa per Milano, c'è chi arriva dall'America, c'è chi arriva dal Giappone, quindi non tutti partono da Milano, ma ci sono diverse strade per arrivare a Wimbledon. L'obiettivo finale è quello, le strade sono più di una. Certo. Bene, e quindi qui ti apro un discorso, Adriano, dove ci sarebbe da parlare per giorni, perché è una diatriba che va avanti, storica, però vediamo, vediamo un attimo cosa ne pensi te su questo argomento. Secondo te, per essere un coach di giocatori professionisti, devi essere stato per forza tu per primo un giocatore professionista, oppure puoi allenarli anche non essendo stato un giocatore di prima fascia? Non so, mi vengono in mente due nomi fra tutti, no? Un non giocatore come Nick Bollettieri e un giocatore come Emilio Sanchez. Entrambi hanno accademie tra le più famose, se non proprio le più famose al mondo, quindi volevo sapere un po' la tua opinione a riguardo. Allora, io forse inizio dalla fine, nel senso che do già la risposta, nel senso che io penso che un buon coach è un buon coach chi riesce a toccare i tasti giusti, cioè chi riesce ad avere il massimo della prestazione anche solo con uno sguardo, e riesce a trovare quel feeling anche solo con un gesto. Cioè, con i miei giocatori mi succede questo: quando c'è quel famoso momento di flusso, anche in fase di allenamento, basta uno sguardo e io so quello che lui prova, so quello che lui sta provando a fare. E quindi secondo me un buon coach è quello che riesce a gestire questi equilibri interni del giocatore, però sempre rendendolo, poi ti spiegherò anche altre cose, sempre rendendolo autonomo, come dire, ti gestisco, ti accompagno, ma la macchina sei te. Ok? Secondo me questo è un coach. E la differenza fra quello che mi hai chiesto, fra un Nick Bollettieri e un Emilio Sanchez, è normale che chi ha giocato a tennis sa benissimo che cosa vuol dire essere dall'altra parte del globo da solo, sei pari al terzo con un match point e magari prendi il primo punto ATP o vinci un torneo future. Cioè, chi ha vissuto queste cose probabilmente è molto sensibile a queste situazioni di gioco, giocate, però non possiamo di certo sottovalutare chi, come gente come Nick Bollettieri e tanti altri che hanno avuto il massimo dai propri giocatori proprio grazie alla sfera emotiva e mentale. Cioè, l'hai detto te prima, i canali comunicativi sono molteplici, l'importante è che uno li trova. Cioè, vanno trovati. Vuoi comunicare? Ok, ci sono tanti canali, ce ne sono tanti, però l'importante è che il buon coach li trovi il modo con cui trasferire e trovare quel feeling con il proprio giocatore. E certo, infatti stiamo completando appunto la domanda perché mentre parlavi mi stava venendo in mente appunto un'altra cosa. Sia Nick Bollettieri, che non è stato un giocatore, o al meglio giocatore di prima fascia, che come Emilio Sanchez, entrambi hanno una caratteristica in comune: sono dei grandissimi comunicatori e comunque sia sono dei grandissimi motivatori, conoscono gli aspetti mentali e sanno come motivare al meglio i propri ragazzi. Quindi questa è l'arma che più accomuna, a prescindere dall'essere stato giocatore professionista o meno. Non so se concordi, Adriano. Concordo a pieno titolo, concordo a pieno titolo, Cristiano. Ci sono troppi esempi opposti, chi da giocatore e chi da guru mentale, che hanno raggiunto risultati. Chi è che è? Faccio io una domanda a te. Vai, vai. Chi è che ha le chiavi del successo? Chi è che può dire che c'è una metodologia vincente? Certo, ma Aiutami. allora, come dice Julio Velasco, no, che benissimo, che conoscerai benissimo, non esiste una tecnica, una verità tecnica assoluta. Quindi tutte quelle persone si mettono a disposizione, apprendono da vari coach tramite scambi, tramite collaborazioni, apprendono il più possibile, hanno la mente aperta a qualsiasi opportunità perché sanno appunto che possono integrarle col loro metodo di allenamento per poi ovviamente trarne il massimo beneficio per quanto riguarda il miglioramento dei giocatori. Quindi non c'è una verità tecnica assoluta, assolutamente. Bravissimo, Assolutamente. è vero, se no non si spiegherebbe perché tanti, non facciamo i nomi, però ci sono genitori, coach, che magari non hanno né giocato a tennis o magari non sono neanche laureati in psicologia, che però riescono a portare i propri figli al vertice. Una Verissimo. cosa, una cosa difficilissima, te lo dice, io ho 34 anni, ho tre figlie, e io penso che è una delle cose più difficili. Rapporto fra giocatore e genitore, sono piccole, io sono neonate, però per dire, no? Chi è che ha, come ho detto prima, la chiave del successo? Ci sono tante volte, ecco, come ho detto, sono genitori che portano i figli al vertice avendo un'esperienza, come dire, di pari passo di quella del figlio. Quindi penso che non c'è una verità. Questo Adriano, questo ai maestri delle volte, anzi più delle volte, sta un po' sulle scatole, diciamo chiaramente, perché il maestro è professionale, studia, no, eccetera, eccetera, e poi dice: caspita, ci sono esempi come il padre della Williams, il padre di Agassi, no, si mettono col cesto 3.000 palle al giorno e guarda cosa è riuscito a tirare fuori. Sta un po' sulle scatole, però è la verità, stai dicendo una cosa verissima. Certo. È una realtà, anche quella è una fetta del nostro mondo, quindi Esatto. va rispettata a pieno titolo. E Adriano, cosa dovrebbe avere secondo te? Qui cambiamo proprio discorso perché molti, diciamo, circoli tennis fanno fatica, come dice Emilio Sanchez, sono stato a un suo simposio qualche anno fa, fanno fatica molti circoli tennis in Italia a chiudere la piramide, quindi ad arrivare al vertice. Cosa vuol dire? Da una buona base di preagonistica, agonistica juniores, si arriva alla metà della piramide, nella quale questi atleti sono dei buonissimi giocatori a livello juniores, under 14 e 16, ma dopo si bloccano oppure sono costretti a trovare altre realtà. Quindi, secondo te, cosa dovrebbe avere un circolo tennis, definiamolo standard, per poter ospitare al suo interno dei giocatori professionisti? E, come dire, c'è qualcosa nella tua struttura, visto che hai allenato in strutture, in circoli e stai allenando in strutture, in circoli di alta specializzazione, quindi che ospitano giocatori professionisti al loro interno, c'è qualcosa in queste strutture che voi avete, nelle quali lavori e che questi circoli standard non hanno attualmente? Cosa dovrebbero fare? Allora, io per quanto mi riguarda, come hai detto nella presentazione, sto lavorando già da 2 anni, questo è il terzo anno, a Tennis Team Bianelli. E posso dire che noi, come circolo, come struttura, facciamo la differenza perché possiamo dare la possibilità ai nostri ragazzi di giocare su due superfici differenti. E sappiamo benissimo, e in Italia ancora non è tanto così, purtroppo, le superfici veloci come il green set fanno sì in panorama internazionale la maggior parte del circuito viene giocato su queste superfici, assegnano, se non sbaglio, il 70-80% dei punti ATP in giro del mondo. Quindi secondo me le superfici sono fondamentali. A Roma è un po' ancora un tabù il campo coperto, perché noi il 25 dicembre giochiamo ancora a maniche corte fuori, però secondo me, dato che la stagione, che le stagioni ormai sono un po' così ballerine, piove tanto, il campo coperto è molto importante. E poi per quanto riguarda tutte le altre, gli altri servizi che si può dare, che un circolo di spessore può dare, sempre a favore del ragazzo, magari anche a titolo gratuito, perché poi si creano delle alleanze, sono il fisioterapista, come c'è da noi, l'osteopata, e due new entry, due figure proprio che abbiamo messo da poco, sono il dentista per quanto riguarda l'occlusione dentale, quindi un bite per tutti i giocatori, quindi scusate, un bite perché abbiamo giocatori che hanno problemi di occlusione, periodicamente ogni tot mesi, ogni 2-3 mesi delle visite oculistiche agli occhi. Però, perché è molto importante monitorare anche gli occhi, la vista. Per quanto riguarda lo sviluppo della lateralità, scusa Adriano se ti interrompo, perché agli occhi mi sono collegato con Paul Dorochenko, lo sviluppo della lateralità, diciamo le dominanze laterali, anche questo. Sì. Bravissimo, sì, però soprattutto anche per quello, perché magari senza saperlo c'è una dominanza particolare e continui a far giocare il giocatore in un certo modo, con un assenso troppo chiuso o troppo aperta, e magari può trovare maggior visibilità e focus della palla in una determinata posizione, o con un occhio che è più comodo mantenendo una determinata posizione. Quindi ecco, è stato queste, su queste sono state le ultime due new entry come figure. Capisco benissimo che non tutti i circoli lo possono fare, noi ce lo possiamo permettere perché non abbiamo solo il settore agonistico, non abbiamo solo il settore professionistico, ma c'è una scuola tennis dietro che è programmata a punti in numero. E quindi è un servizio che non diamo solo alla punta della piramide, al vertice, no? La diamo anche agli under, quindi tutti possono usufruire di questo servizio. Ti dicevo, le realtà in Italia sono molteplici, in attività più piccola, più grande. Io penso che i servizi sono molto molto importanti, cioè quello che tu dai è molto molto importante. Però concludo, voglio precisare, io ho avuto molti amici argentini in squadra con me, amici che giocavano con me il doppio, e ti posso assicurare, io sono stato in Sud America, hanno la metà delle nostre chance, ma fanno il doppio di noi a livello emotivo. Ok? Sì. Tu puoi dare qualsiasi servizio, ma se dentro la fiamma è spenta, è inutile. Verissimo, cioè parte sempre dentro di te, no? È il The Inner Game of Tennis di Timothy Galloway, che è un libro, non so se hai letto, ma se no... No, lo leggerò molto presto. Ti consiglio di leggerlo, poi so che sai benissimo anche l'inglese, c'è sia una stampa americana, un po' più vecchia, degli anni 70, e sia una seconda edizione in italiano, l'hanno tradotto nel 2012, e si chiama appunto Il gioco interiore del tennis di Timothy Galloway, è molto interessante appunto, che rispecchia il discorso che stavi facendo tu ora, e si può avere meno a livello di servizi, ma non adagiamoci troppo sugli allori, perché la maggior parte delle qualità sono proprio dentro di noi, quindi anzi a maggior ragione puoi non avere niente, però hai tutto. È chiaro che dalla nostra parte, dentro un'organizzazione di un tennis club, noi maestri eccetera, creare una struttura idonea, dei servizi idonei all'atleta, per far sì che esso possa raggiungere la peak performance e quindi lo stato di massimo rendimento, quello è assolutamente importante, e noi ci dobbiamo mettere del nostro. Però e dire appunto, far capire ai giocatori che molto del bagaglio del loro borsone sta dentro di loro, ecco, quello verissimo, assolutamente vero. Bene, Adriano, vorrei entrare nello specifico con te all'interno del campo da tennis per quanto riguarda la tua metodologia di allenamento. E questa è una domanda standard che amo fare a tutti gli intervistati per capire le differenze, e integrarle anche al mio modo di vedere le cose, ma anche al modo di vedere le cose dei nostri ascoltatori, giocatori appassionati di tennis. E bene, ti volevo chiedere qual è il tuo metodo di allenamento? C'è un aspetto in particolare al quale tieni maggiormente, che sviluppi ogni giorno e con qualsiasi ragazzo, un aspetto particolare riguardo la tecnica, la tattica, il fisico o per esempio l'area mentale? Sì, ok, come già ti ho risposto nell'altra domanda, secondo me ogni ragazzo è differente dall'altro e standardizzare il lavoro non mi piace. Mi piace sempre di più sviluppare una metodologia che va di pari passo con tre punti che potrebbero essere, che sono i punti di forza per primo, secondo me, le problematiche e gli obiettivi. E io sì, ho una routine di analisi quando vedo un ragazzo. Io maggiormente parto sempre quando lo vedo giocare dal basso, cioè dai piedi e man mano salgo, cioè dal footwork, dagli appoggi, dall'intensità che dà, perché penso che poi tutto il resto è conseguenziale se non si ha un buon appoggio. Però capisco benissimo che se ci sono problematiche nella parte alta, di conseguenza andremo a agire prima nella parte alta e poi dopo nella parte bassa. Però secondo una mia routine di analisi parto sempre dai piedi, perché ormai il tennis, secondo me, se non hai un'alta intensità a livello fisico, è sempre più difficile cercare di avere un'evoluzione, no? Cioè, non, come ho detto prima, non è, questo è una mia, è un mio proprio motto, cioè secondo me non è quante palle, anche se in molti libri di giocatori, di autobiografia c'è scritto dovevo toccare un miliardo di palle, secondo me non è quante palle tocchi, ma è come le tocchi. Quindi non è la quantità, ma è la qualità di come sta in campo. E io penso che parte tutto da questa mia routine, da questo mio pensiero, poi sbagliato, giusto che sia, so benissimo che ci sono coach molto molto più bravi di me e molto molto blasonati a livello internazionale che partono dall'alto, ognuno ha il suo metro di giudizio, tutto qua. E poi un aspetto importante che cerco di creare, forse questa è proprio una delle prime cose, e cerco di creare indipendenza in loro, come già ti avevo accennato. Indipendenza perché secondo me un buon coach ti porta a essere indipendente, ti aiuta di cioè ti aiuta a migliorare determinate situazioni, ti apre gli occhi, ok, ti analizza quello che magari delle volte i tuoi occhi non vedono, o viceversa, perché comunque è un rapporto di riflesso, no? A specchio, perché anche il giocatore aiuta il coach. Certo. Però cerchi di creare, perlomeno io cerco di creare indipendenza. Indipendenza. E questa indipendenza la possiamo chiamare una routine pre-match, una routine mentale, la routine del giocatore prima della partita, che può, sappiamo benissimo i giocatori come provano ad isolarsi, come provano a far salire il loro stato di attivazione o ad abbassarlo, perché poi dipende da individuo, se lo stato di attivazione è troppo alto si cerca di abbassarlo, se è troppo basso si cerca di alzarlo, deve essere in una situazione di un livello meglio, meglio. E cerco di creare in loro e di aiutarli anche nella loro routine mentale. Quindi, E prego. no, ti stavo dicendo, Adriano, mi hai anticipato perché la domanda era appunto riguardante l'aspetto mentale, l'area mentale, era quella appunto che ti volevo fare proprio adesso. E nel senso ti volevo chiedere, visto che abbiamo parlato di aspetto tecnico riguardante per quanto riguarda la posizione dei piedi, quindi partire dal basso, un'analisi tecnica riguardante i piedi, gli appoggi, la stabilità e la tecnica degli spostamenti, che poi, se non sbaglio o non ricordo male, hai portato proprio il project work alla tesi da maestro nazionale a Tirrenia nel 2014 riguardante la differenza della tecnica degli spostamenti sulle varie superfici di gioco, o sbaglio? Bravissimo, io ho portato quello, cioè quella è stata una parte della mia tesi, però era inerente al rovescio bimane a livello tattico. Okay. C'era anche quel, ho portato più esempi e più video su differenti superfici. Uh-huh. È notevole, il cambiamento è notevole, sappiamo benissimo quali sono le difficoltà e le differenze che possono avere i giocatori se non hanno adattabilità su entrambi le superfici. Certo. Provate a immaginare quando passano dalla terra all'erba, cioè si gioca poco sull'erba, ma quando arriva, secondo me, per tanti è un dramma, perché non è fine a se stesso, come dire, è un campo che te lo ritrovi lì solo 6 settimane, 8 settimane là, anche di meno. Assolutamente, assolutamente. E quindi appunto grande attenzione riguardo l'aspetto tecnico della tecnica di spostamenti, movimento dei piedi, equilibrio e appoggi. Invece per quanto riguarda l'area mentale, stavi parlando appunto di routine, e quindi già questa è una cosa che alleni concretamente sia all'interno che fuori dal campo con i tuoi giocatori. Puoi entrare nello specifico di questo, se ci sono degli aneddoti che ti piace raccontare con qualche giocatore per avere appunto, per ritrovare la concentrazione pre-match, ma anche durante o dopo la partita? Guarda, Tiziano, io quello che perlomeno provo a fare con i miei giocatori è cercare di prepararli al match, di preparare il match insieme, ma poi ovviamente hanno loro una loro indipendenza. Io li posso aiutare vedendo, come ho detto prima, la preparazione, aneddoti che mi viene in mente. Io avevo un giocatore, mm-hmm, leggeva il libro prima di entrare in prepartita. Cioè, io mi sarei addormentato sul libro, mentre un altro aveva lo stato di attivazione talmente basso, un giorno l'ho portato a urlare in un bosco. Cioè, ognuno prova a trovare quei canali giusti. È stato vincente, cioè, o perlomeno sì, il loro riuscivo a fare breccia. Uh-huh. Creavo in loro quello stato d'attivazione né tanto alto né tanto basso che ti dicevo. Questi sì, sono due aneddoti, ma poi c'è chi ascolta la musica, c'è chi cambia grip, c'è chi si isola. Io non so se può interessare, io ascoltavo musiche epiche, quelle da battaglia. Uh-huh. quelle che oggi magari senti nei montaggi quando vedi i video di Rafa o di, uh-huh, tanti altri giocatori, no? Quelle musiche da battaglia. I gladiatori. Sì, bravissimo, sì, sono musiche motivazionali. O sì, magari ascoltavo un audio video motivazionale. Cioè, ognuno ha il suo canale. Tutto qua. Quindi questo ti riusciva, diciamo, a caricare. Ciò vuol dire che partivi tendenzialmente con un basso stato di attivazione se vedevi questi video, oppure ti veniva voglia di caricarti prima della partita, ti rendevi conto che eri sotto soglia? Mm-hmm. Ah. Sì, mi rendevo conto che poi, ovvio, questa qui, oddio, non tutti i giorni erano gli stessi, okay, però sì, mi rendevo conto che magari era un po' troppo basso e riuscivo a isolarmi e a caricarmi in modo tale che entravo in campo pronto. Mm-hmm. Poi io ero uno molto lento, cioè io avevo bisogno proprio dell'ora prima, proprio l'isolamento. Ero uno molto, avevo i miei tempi, ero un diesel, mm-hmm, un diesel puro, sì, quindi dovevo alzarmi molto prima, anche se preferivo giocare la mattina, avevo i miei bioritmi che la mattina erano nettamente migliori, l'attesa, lo stress del match serale mi portavano delle volte a non gestire anche l'attesa, il nervosismo, la carica, arrivavo stanco delle volte. è successo, poi sono migliorato e ho gestito anche meglio questo. Perché appunto, essendo stato un grandissimo giocatore, sai benissimo come le fasi pre-partita siano molto importanti ai fini del risultato stesso. Cioè, molto spesso le partite si giocano prima di entrare in campo, e capita così. Bravissimo. È proprio quello che sto cercando di fare adesso con questo giocatore che sto seguendo, mm-hmm. in particolar modo. È Christian Rodriguez. Di visualizzare, di preparare prima che entri in campo devi fare tutta la tua routine in modo corretto, mm-hmm. qualsiasi essa sia, mm-hmm. e la cosa più difficile è creare la mentalità. Certo. Creare il dritto e il rovescio è la cosa più facile. Corde fantastiche, racchette che girano, tecniche che le conoscono tutti, ormai dopo poco tu riesci a giocare a tennis. Ora l'ho buttata sul generico, certo. Per dire, parte tutto, bisogna andare oltre, non c'è niente da fare. Devi vedere quello che gli altri non vedono, se riesci e se sei sensibile a tutto ciò. Assolutamente, verissimo. Anzi, più interviste sto facendo con grandissimi coach, come ci ritroviamo con Adriano qui oggi, e più parlo adesso agli appassionati, mi rivolgo ai nostri ascoltatori, e più si riesce a capire come il filo comune sia appunto l'aspetto mentale piuttosto che la parte tecnico-tattica del gioco. Ma senza fraintendere, ovviamente sono tutti dei grandissimi conoscitori dell'aspetto tecnico-tattico e fisico anche del gioco del tennis, vi posso garantire che sanno tutti i particolari, però si arriva a un punto nel quale si capisce che se si vuole fare un salto, questo non basta. Ecco, non basta perché c'è dell'altro. Sarebbe troppo semplice studiarsi un video su YouTube e imparare subito la tecnica del dritto. Molto più difficile creare degli automatismi e delle stabilità, dei rituali, come ha giustamente chiamato Adriano, che poi portano ad avere delle ancore, no? Sulle quali poter attingere nei momenti anche difficili della partita. E quindi ti volevo fare un'altra domanda, Adriano: prima di servire tu avrai avuto sicuramente un tuo rituale, cosa facevi? Devo essere sincero? Sì, certo. Io, a me tornavano in mente tutte le cose che mi diceva il mio coach, mm-hmm. quei due o tre punti chiave che mi permettevano di servire bene. Mm-hmm. Avevo due o tre cose dal timing, o magari dei piccoli accorgimenti sulle spalle che mi permettevano di servire bene. Mm-hmm. Quindi erano delle ancore, quindi anche questo, ognuno, come vedete, ognuno ha il suo modo. Djokovic fa rimbalzare la pallina non so quante volte per terra, però Rafa prima di servire prende un warning ogni 10 minuti, adesso è esagerato, però nel senso che sappiamo benissimo tutte le sue routine al servizio, quali sono. E queste routine, correggimi se sbaglio Adriano, si mantengono sia in situazioni di punteggio favorevoli, ovviamente, ma anche in situazioni di punteggio nella quale la partita è completamente in equilibrio, ma anche quando è quasi andata, diciamo, si sta quasi per perdere. Quella è la capacità più importante del professionista, secondo me. Cioè, più il livello si abbassa e più queste routine si può anche partire, no? Con l'intento di volerle mantenere per tutta la partita, poi magari va storto un punto, si inizia a perdere, 6-1, 5-2, palla break, match point, cosa succede? Allora si batte così veloce perché non si vede l'ora di andare in doccia. E invece il professionista, anche se perde 6-1, 5-2, 15-40, non rinuncia mai alle sue routine. Quindi questa è una cosa importantissima, perché vuol dire che è tanto importante stabilizzare questi comportamenti, perché alla lunga sono comportamenti vincenti. Certo, hai nettamente ragione. Non riesco a immaginarmi Federer che va di fretta tra un colpo e l'altro, anche perché quei momenti di riflessione, anche se sei in un momento di difficoltà netta, ti portano comunque calma. Certo. Cioè, ti fanno riflettere, ti fanno comunque centrare la situazione, o perlomeno per quanto puoi riuscirci, perché sai benissimo che poi dopo in quelle situazioni la testa può dire molte molte molte cose, mm-hmm. però se riesci a essere agganciato fino alla fine, sia in una situazione negativa che in una situazione positiva, anche in maggior ragione in una situazione negativa, di punteggio sfavorevole, è buono, è buono. È come quando dici ho perso però sono riuscito a, ho perso però ho fatto questo. Noi coach non possiamo sottovalutare quando ascoltiamo quello che ci vuole dire il nostro giocatore, anche in un punteggio negativo. Certo, assolutamente d'accordo, concordo assolutamente con te Adriano. Anche perché, perdonami, quella è la nostra base di ripartenza, no? È il nostro bicchiere mezzo pieno, certo. Capito quello che voglio dire? Certo. Se no non potremmo mai fare questo lavoro. Cioè noi ripartiamo da quelle sensazioni positive in una situazione negativa. Non potremmo mai fare questo lavoro, se no un giocatore perde 10 volte al primo turno di tabellone, che gli racconti? E che gli racconti? Verissimo. Sì. Verissimo. Quindi, visto che mi stavi parlando del tuo atleta, dei tuoi atleti, e vorrei chiudere l'intervista chiedendoti appunto quali sono gli obiettivi futuri, i tuoi progetti futuri con i tuoi giocatori, a che classifica, che ranking ATP state puntando per la fine dell'anno? Allora, diciamo la programmazione adesso ci porta a giocare ancora dei future, perché Christian in questo momento è 600 in classifica mondiale, ha ripreso a giocare dopo un anno e mezzo di stop, e poi dopo una convocazione della Colombia lo ha portato a vincere un future in Colombia in singolo in doppio, in singolo finale vittoria in doppio, e poi a perdere al Challenger a Bogotà contro De Baios, che era 105, era il Bayern in questo momento era 120, perdere in quarti a Bogotà e a 50.000, battendo al primo turno Martin, quindi comunque ha battuto un 150, quindi il suo livello per via della continuità secondo me ancora non è quello, ci siamo vicini, anche se ha battuto giocatori come lui e come forse conosci meglio Woody. Woody è uno dei giocatori cinesi più emergenti, un mese e mezzo fa in Cina ha vinto anche con un risultato abbastanza facile, e Woody è intorno ai 150-160, e secondo me il livello suo si avvicina a quei giocatori, ma ancora non lo è. Se riusciamo a trovare la continuità e le vittorie che ci permettono di scavalcare questo livello future, dopo questo lungo stop che ha avuto, possiamo provare a giocare più challenger e di conseguenza avvicinarsi sempre di più. Non voglio fare progetti di classifica, cioè non voglio dire numeri, voglio solamente dirti che lui si avvicina intorno a quel livello, ma se ci riuscirà, lo spero, questo non lo posso dire. L'obiettivo della nostra programmazione è quello di ogni giorno cercare di portare questa macchina non più a 150 all'ora, ma a 200 all'ora, a 230 all'ora. Quindi cercare di, come direbbero gli americani, raise your bar, alzare l'asticella, cercare di girare a velocità mentale e fisica un po' più alta. Ancora ci riusciamo, ma è astratto. E ecco perché ritorno e concludo alla famosa continuità che ti dicevo. Bene, bene. E Adriano, siamo giunti al termine di questa intervista, e quindi io ti ringrazio per il tempo che hai deciso di dedicarci e ti faccio un grossissimo in bocca al lupo per i tuoi progetti presenti e futuri con i tuoi giocatori. E ti meriti tutto il meglio, perché te lo dico con il cuore, sei un ragazzo in gamba, un vero professionista che ha voglia di crescere e di mettersi in discussione ogni giorno, e per chi fa il nostro mestiere tu lo sai meglio di me, e per raggiungere il successo in questo mestiere questa è l'unica strada percorribile, non ce ne sono altre, quindi ti ringrazio per il tempo che hai deciso di dedicarci. Grazie a te di cuore, e un saluto e un grazie a tutti. A tutti gli amici tennisti e a tutti gli amici di Tennis Winner Game. Grazie di cuore, Tiziano. Ebbene, se l'intervista con Adriano Albanesi ti è piaciuta, io ti invito a mettere un mi piace alla mia pagina Facebook ed a visitare il mio sito internet www.tenniswinnergame.com. Troverai tantissimi segreti ed un sistema di allenamento unico e rivoluzionario pronto per farti migliorare sin dai primi colpi il tuo tennis. Io ti saluto rimandandoti a venerdì prossimo per il nuovo appuntamento del podcast Tennis Winner Game, sprigiona il tennista che è in te. Ti auguro tutto il meglio, una fantastica giornata e play tennis with passion.